Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Che settimana, finalmente sabato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per tornare sui tanti fatti della settimana, con calma, relativa calma, perché c'è meno di un'ora in realtà, anche se andiamo avanti fino alle 15. Sapete che poi al netto, tra pubblicità, viabilità e così via, siamo un po' più brevi. E come è stata piena questa settimana, sarà pienissima anche questa puntata, quindi aguzzate bene le orecchie e l'ingegno anche per esprimere liberamente le vostre opinioni sui tanti fatti di questa settimana. 800 24 00 24, ripeto il numero verde 800 24 00 24. Tra poco svelerò chi sarà l'opinionista estemporaneo o estemporanea di oggi. Intanto vi volevo ricordare anche alcuni dei fatti principali di questi giorni. Tanto sono arrivate sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni tantissimi commenti, soprattutto relativi alla scorsa puntata. Adesso concentriamoci su questa. Allora, sicuramente questa settimana di estrema importanza è stata la condanna dei due fondatori della multinazionale Eternit per le migliaia di morti per amianto che ci sono state in Italia, in realtà poi ci sono state anche in altre parti del mondo, in Europa. Intanto è arrivata questa prima condanna, che è storica perché erano più di 20 anni che si aspettava insomma una sentenza. Poi quello che è successo in Germania, le dimissioni del presidente tedesco, insomma una cosa un po' particolare, è uscita tutta una serie di elenchi di cosa succede in Germania, come si dimettono facilmente, ma anche in Gran Bretagna, politici, presidenti, ministri, eccetera, per cose che magari sono poco immaginabili, diciamo, qui in Italia. Poi l'allarme della Corte dei Conti a 20 anni da Mani Pulite, perché si celebrano in questi giorni 20 anni di Mani Pulite, la corruzione è sempre estremamente dilagante, ha detto il presidente della Corte dei Conti, e succhia ogni anno dall'Italia 60 miliardi di euro, pensate un po', poi c'è l'evasione fiscale, 120 miliardi di euro, se mettete tutto insieme qua potremmo fare a meno di fare tagli. Poi l'Istat che dice, a proposito di come sono le condizioni economiche italiane, che il 24% della popolazione italiana è a rischio povertà, un dato gravissimo, mentre scende ancora l'occupazione soprattutto dei giovani tra i 18 e i 29 anni, il governo che ha deciso di chiarire la questione ICI per quanto riguarda la Chiesa, che sugli immobili e che vengono utilizzati per scopi commerciali deve pagare l'ICI anche la Chiesa Cattolica. Poi la riforma del mercato del lavoro, che continua a essere sempre in primissimo piano, anche se bisogna un po' vedere verso cosa si andrà. Intanto rispunta fuori questa polemica sull'articolo 18 e sapete che creano un po' chi mal di pancia. Poi presidente del Consiglio Monti, da uomo di polso, decisionista, ha detto, l'uomo del Monte si diceva una volta, ma lui è l'uomo Monti, che ha detto basta, le Olimpiadi del 2020 non si fanno, con tutte le richieste, le petizioni, gli appelli che ci sono stati. Ha detto ragazzi, qui non ci sono soldi, e poi le spese effettivamente potrebbero lievitare, come spesso succede in Italia, in modo imprevedibile. Poi tutte le polemiche su Sanremo, che sapete, che avete sentito, sulle quali, se volete, si può tornare. 800 24 00 24. E che cosa possiamo dire ancora? Effettivamente, insomma, le mezze stagioni non ci sono più, ma più per una questione meteorologica. Ci sono tanti fatti che lo dimostrano anche questa settimana, ma diciamo, a Milano dai meno tot gradi che c'erano improvvisamente a 11 siamo stati questa settimana. Quindi per una volta, a parte le metafore, concentriamoci sulle questioni climatologiche. Ma a questo punto, signore e signori, vi vado a disvelare chi è l'opinionista estemporaneo di oggi. Paola Binetti. Buona giornata. Onorevole. Buona giornata. Che bella voce sorridente. Tra i spettatori. Paola Binetti. Certo, le ascoltatrici e gli ascoltatori sono molto curiosi di sentire appunto che opinioni avrà l'onorevole Paola Binetti questa settimana sui tanti fatti che si sono succeduti. Parlamentare dell'UDC, tra l'altro, molti lo sapranno, molti no, Paola Binetti è anche psicoterapeuta, laureata in medicina e chirurgia, specialista in neuropsichiatria infantile e in psicologia clinica. Poi insegna presso l'Università Campus Biomedico di Roma, no? Insegna storia della medicina, psicologia clinica, scienze umane, presidente della Società Italiana di Pedagogia Medica, un sacco di cose. Lei dorme qualche volta? No, ho fatto cose diverse in tempi diversi della mia vita, non tutto insieme. Senta, ma a proposito di dormire, siccome il suo libro, ultimo libro che tra poco presenteremo, si intitola Etica e democrazia, a proposito di dormire, secondo lei c'è un'etica del materasso, per esempio? Ma diciamo che il riposo appartiene a uno di quei bisogni di cui il nostro organismo non può assolutamente fare a meno, e quindi tutti noi abbiamo, come dire, l'obiettivo di creare intorno a noi le condizioni che facilitano il nostro riposo. Abbiamo bisogno di riposare bene per poterci svegliare sufficientemente di buon umore e entrare in relazioni positive con coloro che ci stanno accanto, senza scaricare su di loro un'aggressività e una tensione che si accumula proprio quando non si riesce a riposare adeguatamente. Ha avuto risposta pronta. Le dico questo perché mentre mi preparo anche la mattina per venire qui, e la notte quando torno a casa e vedo le televendite, perché vorrei vedere qualcosa di più interessante ogni tanto, però con tutti questi canali digitali in cui non capisco più niente, un sacco di televendite, ecco, la cosa, il prodotto più venduto, devo dire, è il materasso. Il materasso nelle televendite, e ogni volta in TV ti dico quel giorno che è l'ultimo giorno di una grandissima offerta che non si può perdere, chiamate altrimenti da domani sarà diverso, e ogni giorno invece uguale l'ultima offerta. Secondo lei come mai questa cosa, che ogni giorno è l'ultimo? Diciamo, etica del materasso la chiamerei quella propaganda che cerca di convincerti, creando dei bisogni che non hai, perché tu possa soddisfare delle esigenze che sono quelle di chi vende i materassi o di chi li in qualche modo li programma. Cioè, io credo sinceramente che ci sia una logica del marketing in televisione che risponde a tutt'altre esigenze che non siano i bisogni delle persone. L'importante è che le persone le guardino così come fa lei, sorridendo, prendendosi in giro, riconoscendo la piccola trappola. Addirittura ci sono spot che vanno in onda 3 volte nello stesso programma, creando quella specie di saturazione da comunicazione che ti viene, non dico che ti fa voglia di cambiare canale, ma perlomeno di guardare la televisione avendo sempre in mano anche un buon libro, un giornale, il tuo iPad, un'altra cosa da fare, perché la televisione non assorba tutta la tua attenzione e ti permetta invece di avere quel sano distacco che traduce in una risata anche cose che altrimenti potrebbero essere così irritanti e basta. Onorevole Binetti, ho già compreso nei primi istanti che lei ha proprio una visione, diciamo, ampio raggio un po' su tutte le questioni, quindi parleremo di tante cose, però prima devo fare una doverosa rettifica. Tra poco c'è mi dicono che il collegamento è già pronto, tra pochi istanti, una rettifica, perché nella scorsa puntata, durante le riflessioni marziane, come voi sapete che noi abbiamo questo collegamento, l'unica trasmissione al mondo con un collegamento extraplanetario, è stata raccontata la storia, ripresa dal Corriere della Sera di qualche giorno fa, della nazionale di parlamentari di calcio che era andata in una partita di beneficenza a Catania, e raccontava questo articolo del Corriere che, insomma, i parlamentari si erano fatti spesare di tutto, non avevano dato neanche i soldi per le carrozzine per i bambini disabili, si erano fatti pagare anche il pranzo, anzi poi l'aveva pagato, secondo questo articolo, l'esponente del PD Beretta, e invece poi c'è stata una smentita qualche giorno dopo, prima della trasmissione di sabato. Io devo dire la verità, non me ne ero veduta, ero stata 3 giorni malata a casa, ero ritornata poi in operativa venerdì, non è una scusa, insomma, questa cosa era da vedere, questa smentita mi era sfuggita, quindi è stata smentita soprattutto dall'onorevole Paniz, che è in questa nazionale dei parlamentari di calcio, dicendo che, insomma, queste notizie erano false, infondate. Vuole aggiungere qualcosa, onorevole Maurizio Paniz, che ci ha raggiunto con gli sci, se non sbaglio? Sì, questo corrisponde al vero. Bene, meno male. Ho la fortuna di vivere in un territorio straordinario e quindi qualche volta lo utilizzo Belluno. Per qualche ora di relax. La città di Belluno e la zona delle Dolomiti, in questo momento Bellissimo. Sono nell'Alto Agordino a Rabba, quindi un posto straordinario per sciare. Bene. Il migliore per quanto mi riguarda. Dunque, la ringrazio per aver fatto la rettifica. Ci tenevo a dire esattamente quello che ormai la Nazionale Parlamentari ha già segnalato da tempo ed è stato riportato in molti siti, che è stato segnalato dall'onorevole Beretta, che era stato indicato come colui che avrebbe offerto questa famosa cena perché nessuno voleva pagarla. In realtà le cose non stanno così, e ci tengo a dire che gli stessi organizzatori hanno comunicato che gli obiettivi di solidarietà che erano alla base della nostra iniziativa, della nostra partecipazione all'evento di Catania, erano stati tutti raggiunti. Aggiungo una cosa importante: la Nazionale Parlamentari da 30 anni si muove soltanto per solidarietà e per beneficenza, lo fa sicuramente con impegno, con dedizione, comunità, perché tutti i partiti ne fanno parte, dal 2001 io sono componente di questa squadra, dal 2001 la Nazionale Parlamentare ha raccolto oltre 3 milioni di euro che sono andati in beneficenza. È vero che noi utilizziamo alcuni mezzi che abbiamo a disposizione, tipo l'aereo quando ci trasferiamo in Italia, eccetera, però credo che 20 o 30 mila euro di spese per aerei offerti, dati dallo Stato, siano ampiamente giustificati quando la raccolta degli eventi ha superato i 3 milioni di euro. È una cifra importantissima che è stata data tutta in beneficenza grazie agli eventi ai quali il Nazionale Parlamentare di Calcio ha partecipato. Per cui irradiare notizie che mettono in discussione la disponibilità, la solidarietà e l'impegno personale dei componenti mi pareva davvero ingiustificato. Basti pensare che personalmente ero partito da Belluno venerdì della settimana scorsa. Ma era partito con gli sci? Paniz, con gli sci? Magari fossi partito con gli sci, l'avrei fatto volentieri. In realtà lei ricorda e tutta l'Italia ricorda quali erano le condizioni atmosferiche della settimana antecedente. L'Italia era bloccata dalla neve, ciò nonostante molti di noi sono partiti da varie città d'Italia, io da Belluno con un collega peraltro, abbiamo raggiunto Venezia, l'aeroporto, raggiunto Catania, tutto a nostre spese. A Catania abbiamo partecipato all'evento che era stato organizzato e siamo risaliti il giorno dopo, quindi con perdita di quasi 2 giornate, solo per garantire l'impegno a una parola data e permettere agli organizzatori di gestire un evento che ha portato una risorsa economica a qualcuno che ne aveva bisogno. Irradiare messaggi negativi a fronte di questa disponibilità di molti colleghi, più che non mia ma anche mia, mi pareva davvero ingiustificato, per questo le ho chiesto la rettifica, prendo atto che lei l'ha fatto e ne sono molto lieto. Mi dica una cosa, Paniz, prima di salutarci, che voto si darebbe come sciatore, tanto per capire un po' il livello di... Beh, sa, io vivo in una città che mangia pane e neve, tranne quest'anno perché di neve non è arrivata moltissima, quindi non faccio testo come sciatore, evidentemente non voglio dire sono nato con gli sci, perché quando ero ragazzo non avevo disponibilità economiche per potermeli neanche comprare gli sci, però nel tempo ho imparato ad usarli, ho imparato ad usarli e oggi sfrutto un territorio che è straordinario, il Dolomiti Super Ski permette di avere qualcosa come 500 impianti collegati in un'unica tessera e quindi di vedere le magnificenze delle nostre Dolomiti e di una provincia Belluno che è assolutamente unica dal punto di vista del messaggio turistico che può offrire. Maurizio Paniz, ci saluti le Dolomiti. Buona sciata. Lo farò molto volentieri, la ringrazio per la serietà e per la correttezza con la quale ha rettificato la precedente affermazione. Grazie a lei, grazie. Buona giornata. Buona giornata a lei. Bene, mentre lasciamo l'onorevole Paniz sugli sci, veramente sono molto belle quelle zone. Allora, onorevole Binetti, lei non gioca a calcio? No, non gioco. Non scia neanche? Ho sciato per molto tempo, però adesso è tanto tempo anche che non lo faccio. Ho sciato negli anni, diciamo, della gioventù, tanto, ma adesso è tanto tempo pure che non lo faccio più. Del resto, l'onorevole Binetti, come abbiamo detto, è molto impegnata e l'ultimo libro, che è veramente un libro molto ricco, molto articolato, molto denso e anche complesso, Etica e Democrazia, pubblicato dall'Indau, il contributo dei cattolici alla politica, in cui affronta vari argomenti, anche la questione del rischio che un eccessivo liberismo possa schiacciare anche la vita di tutti, rendere più forte, più ampia la forbice tra chi è ricco e chi è povero, parla di un nuovo umanesimo, dei diritti umani, della laicità. Quindi dicevamo, questo libro, Etica e Democrazia, quanto abbiamo bisogno di etica e soprattutto negli ultimi tempi, no? Lo sappiamo, poi parlavamo prima delle dimissioni del presidente tedesco, visto oggi, a proposito di questo, onorevole Binetti, del suo libro, prendiamo Corriere e Il Fatto Quotidiano, come affrontano diversamente la questione dell'immagine, del potere e dell'etica, no? Allora, sul Corriere c'è cominciamo dal Fatto Quotidiano, c'è Marco Travaglio nel suo editoriale che praticamente dice che quello che è successo in Germania con le dimissioni del presidente Wolf, che si è dimesso per un prestito agevolato da 500.000 euro, segna il vero spread tra l'Italia e la Germania. Dice qui indagate anche politici per corruzione, concussione, falso, truffa, associazione a delinquere, non si dimettono, vengono, dice, scrive, salvati anzi dal Parlamento quando si tratta di decidere per l'arresto o no. Dice questo è il vero spread, lo spread morale, cioè tra Italia e Germania. Mentre Sergio Romano l'affronta diversamente sul Corriere e fa l'elenco di vari scandali che sono successi un po' in vari paesi, compresi gli Stati Uniti, dice, dove c'è una classe dirigente politica comunque corrotta e venale, anche se poi li trattano con severità, e arriva fino al caso della Germania, dicendo però Dice, questo è successo in Germania nel momento in cui proprio la Germania dava lezioni di pubblica moralità alla Grecia. Dice, per carità, si può richiamare la Grecia ai suoi doveri, eccetera, eccetera, ma dovrebbe fare a questo punto un bagno di umiltà. Lei come la vede? Più come Travaglio, che dice questo è lo spread tra Italia e Germania a proposito di etica e democrazia, o come Sergio Romano? Guardi, io credo che non si possa dire, tra virgolette, che i tedeschi sono migliori di noi o che gli americani sono migliori di noi o che noi siamo migliori di qualche altro popolo. Io credo che la dimensione etica non appartenga strutturalmente, come dire, a un paese, ma appartiene personalmente a ciascuno di noi, no? Quindi credo che ci sia una risposta etica che ognuno di noi deve trovare nella coerenza con cui vive i suoi valori e assume le proprie responsabilità e il proprio impegno. Però è vero che c'è bisogno di un ethos pubblico riconosciuto nel quale tutti quanti noi ci possiamo confrontare. Come dire, c'è bisogno di un insieme di regole, non solo di leggi, ma di stili di vita, quella sorta di moral suasion per cui fa sì che tutti quanti noi riteniamo che quel tipo di comportamento possa essere migliore di un altro, che quel tipo di comportamento possa essere disdicevole. Faccio degli esempi molto piccoli, se vuole, molto banali, no? Sì. Si ricorderà ai tempi in cui, quando una persona anziana saliva su un autobus e si le persone si affannava dal salto per farla sedere. Non c'era una regola, non c'era una legge, però c'era una segreta e una condivisa idea che bisognasse venire incontro in tutti i modi alla fragilità di qualunque tipo fosse. Non era questione di censo sociale, non era questione di livello culturale, era semplicemente la fragilità di una persona che intercettava da parte nostra una certa solidarietà. Allora io credo che vada recuperata una visione condivisa di un ethos quando è in gioco una riflessione sulla democrazia. Io credo che la nostra democrazia oggi scricchioli, non tanto perché a livello personale la gente non abbia una sua dimensione etica fatta di valori e di condivisioni e di convinzioni, ma perché questi valori e queste convinzioni non sono sufficientemente condivise e quindi non costituiscono quel clima nel quale tutti quanti noi ci possiamo riconoscere. La cosa che lei ha letto all'inizio, che era veramente la cosa più, in un senso, più brutta, più antipatica per me come politico, che era quella immagine così, me lo lasci dire così, così sudicia di una politica esclusivamente volta a trarre benefici per sé, a strumentalizzare le cose, a, come dire, a impegnarsi a intervenire a favore di bambini disabili e poi magari nemmeno pagare le carrozzine, mi sembra che lei abbia detto, no? Cioè nemmeno, come dire, rispondere. Sì, lì c'era la rettifica però su quella cos'era, quella della nazione. No, lei ha fatto molto bene a rettificare, cioè. No, le voglio dire che nel momento in cui però diventa credibile che un'intera classe politica, non un singolo, attenzione, ma che un'intera classe politica si comporti in questo modo e lo faccia con questa sgradevole capacità di strumentalizzare il disagio degli altri più di ricavarne un vantaggio in termini di immagine, questo significa che all'interno della relazione che lega classe politica e, come dire, mondo della comunicazione e dell'informazione, classe politica e mondo del disagio e della disabilità, si è rotto qualcosa. Sentiamo onorevole Binetti, Massimo da Terni, ci sono i vari ascoltatori in attesa all'800 24 00 24. Che dici, Massimo? Salve, buonasera. Roberta, un saluto anche all'onorevole. Senta, dunque, una domanda molto semplice. Prima di tutto parto dal presupposto che a un momento, no, il nostro paese vive momento particolarmente difficile, c'è tutta la questione etica della evasione fiscale, che è una cosa molto importante, che effettivamente, voglio dire, occorre veramente che le persone diventino più eticamente responsabili. Certo. Però faccio questa premessa per parlare anche dell'etica che lo Stato ha nei confronti dei cittadini. Dunque, si parla di evasione fiscale, ma noi sappiamo che la Banca Centrale Europea vende i soldi alle banche all'1%. Poi le banche cosa fanno? Con questi soldi li vendono allo Stato e compra, perché lo Stato emette buoni del tesoro che le banche comprano al 5, al 6, al 7%, perché avete visto che i decennali fino a qualche settimana fa erano al 7%, ora sono al 5,50%. Allora, ma come fa il governo, il Parlamento, a permettere di lucrare alle banche il 5-6%. Quel 5-6% vanno a arricchire le banche, ad impoverire l'Italia. Allora, se si parla di etica, qual è l'etica del governo e l'etica del Parlamento nei confronti dei cittadini? Ecco Massimo, questo lo giriamo subito all'onorevole Binetti, se mi dà una risposta sintetica, perché abbiamo vari collegamenti tra poco. Massimo, dimmi una cosa, Massimo, tu cosa ne pensi della decisione del governo di far pagare l'ICI agli immobili commerciali della Chiesa? No, la Chiesa non soltanto dovrebbe pagare l'ICI sugli immobili commerciali, su tutti gli immobili. La Chiesa è lo Stato più ricco del mondo, c'ha il patrimonio immobiliare più ricco del mondo. Chi più ha, più deve dare. Chiarissimo, Massimo, chiarissimo. Massimo, ti ringrazio, così stringiamo un po' i tempi. Onorevole Binetti, cosa risponde sull'ICI? Allora, voglio rispondere tre cose. La prima, che condivido sul primo punto, sul fatto che le banche oggi dovrebbero darsi anche loro una diversa etica. E la banca nasce per venire incontro ai bisogni delle persone, nasce per venire incontro ai bisogni della piccola media impresa, nasce per farsi carico delle esigenze delle famiglie. Mi sembra che questa mission personale, strutturale delle banche si sia in gran parte appannata. Quindi in questo primo punto coincido con quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Secondo punto, io credo che la Chiesa, intanto bisogna distinguere tra la Chiesa italiana e lo Stato del Vaticano, ok? Ma immaginiamo la Chiesa italiana. Credo che la Chiesa italiana debba sottostare a una serie di norme come tutte le altre strutture che ci sono nel nostro paese. Ora, tutti noi sappiamo che ci sono delle strutture nel nostro paese che per la loro mission sociale non pagano l'ICI. Nel caso concreto della Chiesa questo riguarda i luoghi di culto, ma sappiamo anche che tra queste strutture ci sono anche i partiti e altre realtà, no? Che la cui funzione sociale viene considerata così rilevante in un paese da ritenere che il compito che svolgono è già un compito che in qualche modo rappresenta un investimento del paese stesso. Nel caso concreto della Chiesa e dell'ICI, lo dico proprio in modo sintetico, guardi, sì, spero di essere chiara, ci sono tre ragioni di impegno da parte della Chiesa. Una è esclusivamente, totalmente concentrata sugli aspetti, chiamiamoli così, di culto, oppure sugli aspetti sociali, chiamiamolo l'oratorio dei ragazzini. È evidente che queste due funzioni non richiedono un pagamento perché non hanno alcuno scopo di lucro. Lei sa benissimo che è uscito anche l'impegno della Chiesa in questi giorni sul fatto di non far pagare il ticket d'ingresso alle chiese, che restano i più grossi e più preziosi musei aperti dello Stato italiano. Secondo punto, ci sono dei luoghi in cui si svolge un'attività mista, in parte sociale, con caratteristiche di tipo economico e quindi anche, chiamiamolo così, redditizio, e invece in parte sociale. E li pagheranno la frazione dell'immobile che si occupa. Sì, poi ci sono alcune attività chiaramente di tipo commerciale, cliniche, scuole. Ci sono una serie di istituti che svolgono un'attività, chiamiamola così, di tipo alberghiero, e lì la Chiesa pagava, paga e continuerà a pagare l'ICI. Se si perde di vista la distinzione tra queste tre realtà, ci si confonde. Allora, tra pochissimo c'è Marco da Roma. Come dicevamo, abbiamo, come sempre, lo sapete, unici al mondo in questa trasmissione, il collegamento con Marte. Riflessioni da Marte. Quassù da Marte, quanto turbinare umano si è visto anche questa settimana, con politici che si dimettono per finanziamenti a tasso agevolato come solo in Germania sanno fare, dove spesso non serve nemmeno essere indagati dalla magistratura, magari basta aver copiato un pezzetto di tesi per sentirsi in dovere di fare le valigie e farsi da parte. E poi la Grecia ormai all'osso, alla quale si chiede tra un po' di dimezzare le poppate agli infanti per risparmiare, in vista di tempi ancora più magri. Ma in questa settimana in Italia si è parlato soprattutto di santi, Sanremo e San Valentino, che ha ispirato molte conversazioni sull'amore. Giovanardi, mi dica una cosa a proposito di risposte: se lei vedesse due ragazze che si baciano per strada, si tengono per mano e si baciano per strada, direbbe che schifo oppure finalmente qualcuno si ama? Guardi, o che altro? L'ho detto un milione di volte che ci sono situazioni e situazioni. Un nudista in un'isola di nudisti non mi dà nessun fastidio. Un nudista a Riccione sotto l'ombrellone, dove ci sono i bambini e le mamme, mi dà fastidio ed è fuori posto. Ecco, ma un uomo e una donna che si... Scusi, onorevole, mi faccia parlare un po'. Uomini o le donne che ostentatamente si baciano in un supermercato, dove si non baciano? È il luogo adatto per farlo, come ai figli dà fastidio persino quando vedono i genitori, eppure sono i loro genitori, che assuma atteggiamenti. Quindi mi scusi, Giovanardi, quindi c'è licenza di bacio per qualcuno e licenza di non bacio per non licenza io di bacio. Se lei c'è un attimo attenta e non fosse prevenuta nelle risposte, l'ho detto che no, sono io sto cercando di domandare anche davanti ai genitori, quando i genitori davanti ai figli si baciano, non possono piccoli fare. O grandi hanno delle fusioni fra di loro, un bacio sono giustissime, ci mancherebbe altro, possono creare del disagio. Ma a lei dà fastidio, a lei personalmente, due ragazze che si baciano per strada? Personalmente e in un supermercato, l'ho detto, o in ma a parte il supermercato luogo, diciamo alla stazione, in un luogo pubblico vedo due uomini che ostentatamente si baciano fra di loro. Ma non è ostentatamente, si danno un bacio. Ecco, due ragazze che si lasciano alla stazione, una sale sul treno, l'altra lì sotto, due ragazze che si lasciano alla stazione, una sta due partendo col treno. Ostentatamente si baciano. Ma sta parte ostentatamente questo avverbio, scusi Giovanni. Ma perché? Mi lasci spiegare. Ma c'è sempre una misura nelle cose. No, ma mi lasci spiegare. A lei dà fastidio uno che fa pipì? Dice no, perché uno va in bagno e fa c'entra? Pipì. Ma che c'entra? C'è una cosa sconcia. Se uno invece si mette Giovanardi, ma una cosa sconcia. Giovanardi. Ma scusi, ma una cosa sconcia se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra giù si saluta, non si tampone. Bon ton, donna Letizia, lo chiamava il bon vabbè. Ton. Come si fu questa noce, la ultima vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte después. Eccoci qua, Marco da Roma, 800 24 0024. Marco, buongiorno. Ecco, volevo fare due domande. Sì. La prima è in merito ai rimborsi elettorali. Alcuni partiti hanno dichiarato che sono avanzati dei soldi. Perché non restituirli visto che sono rimborsi? La seconda, io ho una piccola impresa, lavoro per lo Stato. Sì. Parlo di economia, economia statale. La mia fattura, prima di essere incassata, passa in 8 uffici diversi. Faccio un esempio, ho fatto un lavoro per l'esercito, da Roma andata a Perugia, Perugia a Pescara, tutto cartaceo, Pescara a Firenze. Firenze, protocollo del Ministero della Difesa. Ministero della Difesa, Genio Difesa, un altro ufficio. Genio Difesa, bilancio. Sì, una bilancio, burocrazia infinita. Ho capito, una burocrazia infinita, anche se adesso dal governo Monti si è deciso che bisognerà pagare in tempi più brevi, no? Perché sì, tutti si sono decisi in tempo passato, tutti hanno detto semplificazione, contro semplificazione. Costa molto alla comunità e costa pure molto all'impresa. Ma io non lo so, questi politici dove vivono? E questa è la domanda. Grazie. Marco, dimmi solo una cosa. Ti dispiace che non si faranno le Olimpiadi a Roma nel 2020? No, non mi dispiace. Non mi dispiace perché ho visto quello che hanno fatto per quanto riguarda i campionati mondiali di nuoto. Le faccio esempio. Al velodromo, dove c'era l'ex velodromo all'Eur, dovevano fare una piscina, non l'hanno fatta. Hanno solo demolito il velodromo. Vicino al mio ufficio, che sta sempre all'Eur, è una piscina ancora incompleta. Un'altra che l'hanno fatta proprio fronte mare, a Ostia, l'hanno finita dopo i mondiali. Ma con questa amministrazione, con questi politici che gestiscono questi mondiali, non è possibile fare nulla. Grazie Marco, sei stato chiarissimo. Siamo sempre qua, è Roberto Giordano con voi, l'onorevole Paola Binetti in collegamento, parlamentare dell'UDC. Ultimo libro, Etica e Democrazia, edizione Lindau, il contributo dei cattolici alla politica e di etica, insomma ne stiamo parlando in modo trasversale su vari argomenti. Che dice onorevole Binetti, sinteticamente, di quello che diceva Roberto sui rimborsi elettorali? Dice si sono avanzati, perché non restituirli? Beh, lei visto che in questo periodo c'è stato questo scandalo certo abbastanza grave, no? Caso allora, lui, io credo che quando una legislatura finisce in anticipo non ci debba essere bisogno di continuare a versare a quel partito i contributi, sia che esista sia che non esista. Guardi, credo che i contributi vanno versati nella misura in cui dura una determinata legislatura. Quando poi un partito termina, io credo defunge, che le risorse di quel partito vadano in qualche modo, come dire, risolte, e non so se necessariamente ritornare allo Stato, non so se invece in qualche modo passare anche alle strutture che nascono da quel partito che è finito, oppure se la dedicazione migliore non sia quella di una serie di, chiamiamoli così, di iniziative a forte impatto sociale. Questo non lo so dire, però le voglio dire una cosa con certezza, che quello che è emerso in questi giorni, questo vero e proprio scandalo dei partiti, richiede una norma, una legge sui partiti che rappresenta rappresenta uno dei buchi neri della nostra Costituzione. Intendo dire buco nero perché non è mai stata formulata. Regolamentato. Onorevole Binetti. Invece è urgentissimo fare una legge. Io mi immagino che in questi giorni in cui si sta parlando tanto di riforme istituzionali, la riduzione dei parlamentari, mandiamoli a casa 150, 200. È d'accordo lei a ridurli? Ma io penso di sì, anche perché in realtà le due Camere così numerose avevano una ragione forte di esistere quando non c'erano, per esempio, i partiti regionali, no? Il governo regionale. Adesso il governo regionale è una struttura molto forte, molto ampia, una struttura anche pesante, quindi probabilmente tutte insieme queste strutture non rispondono più a, come dire, ai cambiamenti istituzionali che nel tempo si sono verificati, per cui si sono aggiunte altre forme di governo senza rivedere quelle che c'erano in precedenza. Forse questo è arrivato il momento di fare una riforma istituzionale complessiva. Roberto da Milano, all'800 24 0024. Roberto. Sì, buonasera, signora Giordano. Sì, finalmente riesco a prendere la linea. Una considerazione, circa l'articolo di Travaglio che ha detto lo spread che divide l'Italia dalla Germania è dovuto fatto calarsi di metro e qua no. Sì. Dipende dalla cultura luterana dei tedeschi. La cultura luterana è nata proprio in opposizione al fatto che la Chiesa vendeva le indulgenze, per cui secondo loro quando uno si appropria di soldi in maniera fraudolenta o semifraudolenta è da mazziare, parliamoci terra a terra. Seconda considerazione, lei prima ha fatto riascoltare l'intervista a Giovanardi e molto abilmente non ha sottolineato la differenza tra bacio e bacio, perché c'è un bacio di un certo tipo, per esempio se lo danno anche i mafiosi, quando si incontrano si baciano, il famoso bacio di Andreotti ha fatto un processo che dura altri 20 anni, e poi c'è un bacio diverso, una roba diciamo un momentino più erotica. Aveva perfettamente ragione Giovanardi, mi scusi, ma io la penso così. No, per carità, è legittimo. Terza cosa. Sì. Mi saluti la signora Rodotà che finirà la trasmissione, così almeno capisce chi sono e non la tampino più con le mail. Beh, mi raccomando, niente stalking, grazie Roberto, grazie. Onorevole Binetti, esiste il paradiso? Io sono convinta di sì, certamente, sono radicalmente convinta. Sa perché? Perché ha sentito che... Anzi, io spero che ci sia quel paradiso, non solo, cioè, lo credo per fede. E lo spero che ci sia perché è uno dei modi più concreti con cui tutti noi cerchiamo di fare fronte alle difficoltà quando non possiamo scansarle, non possiamo evitarle. Speriamo che ci sia una giustizia più piena. Glielo chiedo anche perché, onorevole Binetti, ha sentito tutte le polemiche su Celentano, eccetera, eccetera, i giornali che devono chiudere, va bene. Però lui ha insistito molto sul fatto che i preti, i giornali cattolici dovrebbero parlare di paradiso, dare speranza, dire che la vita non finisce lì con la morte, che c'è anche dopo, insomma, qualcosa, che c'è un fine che non finisce lì con la fine dell'esistenza terrena, la nostra vita. Lei è d'accordo su questa polemica? Io sono totalmente d'accordo, ma lei ha letto su Avvenire di oggi 4 consigli che Avvenire dà a Celentano. Ah, no, questi sono uno di questi è proprio quello che ha detto lei. Quindi evidentemente lei non l'ha letto. No, non ce l'ho fatta anche Avvenire, no. No, non importa, si figuri, non importa, però Avvenire suggerisce a Celentano nel suo prossimo intervento di sottolineare di più lui stesso questa dimensione positiva del senso della vita che non si ferma soltanto in una realtà terrena, no? Ma che è in grado davvero di immaginare un qualcosa che per tutti noi rappresenta il compimento dei nostri desideri, delle nostre speranze, la ricongiunzione dei nostri affetti, quella giustizia che qualche volta ci è sembrato di subire e che non ci è sembrato rispondesse davvero a criteri di autentica giustizia, e che ci sembra invece che il paradiso dovrebbe concederci tutto almeno ciò alla fine. E, ecco. E questo lo dice proprio il suggerimento che viene dato a Celentano. Mi dico una diciamo cosa. Che Celentano ha fatto una grande insalata russa. Ecco. Onorevole Binetti, mi dica una cosa, ma due ragazze che si baciano quando muoiono vanno in paradiso o vanno all'inferno? O magari al purgatorio per un qualche periodo, che ne so. Allora, intanto vale quello che le ha detto il radiospettatore pochi minuti fa, dicendo che ci sono tanti tipi di baci, no? Credo che tutti noi, anche noi tra donne, siamo molto più affettuose degli uomini, no? Cioè, nel senso che a me capita moltissimo di trovare, a parte le sorelle, mie nipoti, amiche anche, no? Cioè, è un modo molto diciamo, caldo, molto affettuoso, proprio che nemmeno ce ne rendiamo conto, cioè, voglio dire, proprio... Ma quando lo si dà per amore, diciamo, al di là dei giri parole, guardi, lo si dà per amore, perché sei innamorate. Nella valutazione di questo intanto esiste una un'intenzionalità dei sentimenti e degli affetti che soltanto chi la vive può esprimere e commentarla. E nessuno può dall'esterno giudicare il senso di quel bacio, oggettivamente ve lo dico, quindi penso che io non mi permetterei di giudicarlo. D'altra parte, siccome stiamo parlando di paradiso, se poi per caso qualcuno avesse in qualche modo nella sua vita anche sbagliato, il bello del paradiso è che si può sempre riparare, no? Si può sempre, come dire, se uno ha commesso un errore può davvero diciamo rettificare. Che non è il bacio questo errore, però, no? Lei diceva. No, ma il paradiso non sarà giudicato il bacio. Non sta mai in questo, sta sempre nelle intenzioni e nel cuore delle persone, no? Cioè la ragione per cui quella è la diciamo è la nostra più grossa difficoltà, quella con cui dobbiamo fare i conti tutti quanti noi. Io credo che se lei sicuramente ha sotto gli occhi quel bellissimo filmato di Su San Filippo Neri, no? Siate buoni se potete, preferisco il paradiso, se lo ricorda? La televisione l'ha rifatto recentemente, sì. Lui era bravo, bravissimo a Gigi Proietti, e dice proprio preferisco il paradiso. Io credo che alla fine nelle difficoltà in cui ognuno di noi va incontro, quando con la sua coscienza potrebbe venire a patti, credo che ricordarsi una cosa di questo genere, preferisco il paradiso, ci aiuta tutti a trovare una linea di condotta più serena, poi alla fine più vicina ai nostri, alla nostra stessa natura, quella che ognuno di noi ha. Insomma. Ognuno c'ha la sua, vero? Esatto. Sentiamo allora sinteticamente anche Marcello, che chiama da Pisa. Cosa avrà da dire Marcello? Buonasera. Io sono Buonasera, tutti con un cielo un po' oscurato siete no, oggi. No, anzi, siamo proprio in una perfetta mezza stagione, perché qui a Pisa c'è un buon clima. 15 gradi. Sono ottimo, gioco a calcio, perfetto. Bene. Io che intervenivo con molto piacere, un po' per parlare di soldi, ma in realtà aver sentito la polemica su Celentano mi hanno rallegrato, perché in fondo il tentativo di portare un po' al di sopra del livello solito dei nostri discorsi, quello che dibattiamo, fa bene. Soldi, cosa volevo dire? L'ICI, io ho una casa, pago l'ICI, ho pagato l'ICI, pagherò l'IMU, non ho attività commerciali a casa mia. Mi dispiace sentire, leggere che la Chiesa possa contribuire, no? Soltanto laddove c'è da sostenere un'attività remunerativa. Io, ripeto, a casa mia non faccio attività commerciali, contribuisco come tutti gli altri. Chiarissimo, Marcello. Poi vediamo se c'è tempo per una risposta poi dell'onorevole Binetti. Però adesso abbiamo anche un appuntamento, come Roberto Scaltritti alla parte tecnica mi ricorda giustamente, con Maria Laura Rodotà del Corriere della Sera. Maria Laura, qual è buongiorno. Buongiorno, cara Maria Laura, ben ritrovata. Senti, ma sentivo uno strano interessante bisbigliare nel mio collegamento via telefono. Chi è che bisbigliava? Ma è il codice da Binetti, suppongo. Codice da Binetti, in che senso? Nel senso che io non ho capito assolutamente cosa dicesse la senatrice Binetti, ma suppongo che fosse un evocativo bisbigliare con, come dire, non lo so, era molto interessante, suppongo. Allora avevi nulla. Il telefono che non funzionava bene, scusa Maria Laura, poi vatti a riascoltare la trasmissione sul podcast di Radio24.it oppure sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, piena di commenti che forse non riuscirò a leggere, perché insomma parlavano soprattutto delle Olimpiadi di Roma, che la gran parte è d'accordo che non si facciano queste Olimpiadi. Ma non lo so, a Roma c'è stato un boato quando... Tutti contenti che non si facessero, dice qua, almeno ci risparmiamo. Ma guarda, lavoro in corso, allora, soldi, prima speculazioni. Di tutto, Roma non è, vogliamo dire questo, Roma non è avulsa dal resto del paese, Roma è Italia, nel senso che quando il Presidente del Consiglio ha fatto sapere che non ci si sarebbe candidati alle Olimpiadi, c'è stato entusiasmo a Roma come a Bergamo. Effettivamente, sì, diciamo l'Italia è tutta intera e su questa cosa, su soldi che sarebbero insomma calati sulle nostre spalle in un momento così di difficoltà, erano tutti contenti di evitarlo. Benissimo, Maria Laura, allora salutaci. Ciao. Roma, grazie, poi riascoltati anche la puntata, e adesso invece abbiamo un altro appuntamento. molto sintetico con Valeria Della Valle, alla quale vorrei sottoporre, la nostra linguista della Sapienza di Roma, questo termine. Parliamo di festival, visto che tanto è dentro la nostra cultura pop. Sì, visto che non si parla d'altro, allora la parola festival deriva da una parola antico francese, festival, che a sua volta veniva dal latino festivus, cioè piacevole, festivo. Poi la parola è entrata nella lingua italiana, tra l'altro è entrata molto tardi, addirittura a metà dell'Ottocento, e poi piano piano, dopo il 1870, la parola ha cominciato a essere usata col significato di manifestazione musicale teatrale. Però contro la parola festival, visto che veniva dal francese, si erano scagliati già nell'Ottocento i puristi, e hanno continuato anche in seguito, anche nel Novecento, Paolo Monelli, uno per tutti. Però devo dire una volta tanto che su una cosa almeno i puristi avevano pienamente ragione, quando insistevano sul significato della parola, che secondo loro doveva continuare a indicare che cosa? Una festa di carattere popolare, anzi popolaresco, un baraccone con suoni, canti, balli. Mi sembra una descrizione perfetta ancora oggi del Festival di Sanremo. Molto bene, grazie Valeria Della Valle. Grazie, arrivederci. Grazie Valeria. 800 24 24, se c'è qualche ascoltatore, sì, ecco, chiedo scusa a Pino e agli altri che sono caduti, forse abbiamo ancora tempo per uno. Sì, ci proviamo. Benissimo, c'è Don Angelo, abbiamo un sacerdote. Don Angelo è lei, siamo sicuri. Riesce a essere sintetico, Don Angelo? Ce l'ha la qualità della sintesi? Come... Sì. Don Angelo, ci sono. Dica. Pronto? Fin troppo sintetico così, però non dire nulla. È caduta la linea? Sì. Onorevole Binetti. Mi sente? Senta, su questa storia del so che adesso è in discussione questo progetto di legge sul divorzio per accorciare i tempi, tra l'altro il relatore, l'onorevole Paniz, ha proposto un anno dopo la separazione per il divorzio e 2 anni in caso di figli. Lei invece dice no, bisogna mantenerlo a 3, sinteticamente, proprio meno, in pochi in secondi. Caso di figli, sì. Ma guardi, non è perché so perfettamente, sa che questo è l'emendamento che io ho proposto, è stato bocciato in commissione, quindi il margine di probabilità che venga bocciato in aula è molto alto. Lo dico per tutti coloro che si preoccupano, che i tempi siano un po' più lunghi. Mi dica una cosa, onorevole Binetti, no? Prima di riprendere Don Angelo, se qualcuno dovesse dire l'onorevole Binetti è lesbica, è diffamazione per lei o... Per me è una diffamazione assoluta. Perché quindi è un'offesa, allora, la ritiene un'offesa? No, però sarebbe la stessa cosa se dovessero dire... qualunque altra cosa. Se dovessero dire verità. L'onorevole Binetti è un'offesa alla verità che io sono e che io rappresento. Ma se dovessero dire l'onorevole Binetti è francese, è diffamazione questa? Non è diffamazione, ma è un falso. Ah, beh, allora l'altro un po' lo prende come offesa, insomma, una cosa un po' disdicevole. No, voglio dire comunque un falso. Sì, c'è Don Angelo. Don Angelo riesce però proprio in un minuto, la prego, in 33 secondi. Volevo dire semplicemente questo, che noi abbiamo la gran fortuna come cattolici, per chi ci crede, che il Padre Eterno non giudica come giudicano gli uomini della Chiesa, va bene? E quindi per quanto riguarda il bacio, o che sia spirituale, o che sia d'amore, o che sia tra uomini e donne, o donne e donne, uomini e uomini, il Padre Eterno, ripeto, non giudica come giudichiamo noi uomini. Questa è la grande nostra fortuna, va bene? E noi sacerdoti pensiamo che non abbiamo dato baci, ma abbiamo fatto altre schifezze. La ringrazio. Grazie, Don Angelo. Abbastanza inaspettato questo intervento in quest'ultimo minuto che ci rimane, onorevole Binetti. Comunque rappresenta il fatto che, diciamo, di buono c'è questo, che per tutti noi è vero che è il Signore che giudica la coscienza di ognuno di noi. Mi dica una cosa. E quindi, quindi le intenzioni sono quelle che sono contenute nella nostra anima e nella nostra... Quelle le può giudicare soltanto Dio. Dal punto di vista dei comportamenti esterni, ognuno si fa un giudizio per quello che certo vede. Onorevole Binetti, in questi ultimi secondi, allora adesso la compagnia aerea KLM ha deciso che sarà possibile studiarsi su dei social network come Facebook abilitati il compagno di viaggio quando si deve fare un viaggio lunghissimo, a lunga distanza, in modo che uno dice magari me lo scelgo con un profilo che assomiglia a me, che abbia i miei interessi nei lunghi viaggi, parliamo insieme. Chi si sceglierebbe lei se potesse come compagno di viaggio? Sì. Io mi sceglierei un buon libro, che è la cosa che preferisco quando viaggio, e cercherei in qualche modo di mantenere quel poco momento, quel poco tempo che ho per pensare, per riflettere e magari per lavorare anche un po' serenamente. Molto bene, allora tanta serenità a lei, onorevole Paola Binetti, col suo libro Etica e Democrazia. Grazie, vi ricordo che la trasmissione può essere riascoltata sul podcast del pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.